Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Il tema di oggi non ci mette certo di buon umore, è uno dei tanti sintomi di una crisi che sempre più spesso lascia le sue tracce e molte volte le sue ferite nella vita quotidiana di tante famiglie. Continua a crescere il numero degli sfratti. Nel 2012 sono stati 67.790 in Italia, con una crescita del 6,2% rispetto all'anno precedente. Nella stragrande maggioranza dei casi la causa è la morosità dell'inquilino e secondo recenti elaborazioni gli sfratti per morosità sono aumentati del 64% fra il 2007 e il 2011. Insomma, sempre più spesso non si riesce ad arrivare a fine mese e quindi non si riesce nemmeno a pagare l'affitto. Dall'altra parte c'è un proprietario che spesso a sua volta ha bisogno di quell'entrata e in molti altri casi, nonostante i ritardi e le irregolarità dei pagamenti, non arriva a chiedere lo sfratto. Se considerassimo anche queste situazioni, i numeri che abbiamo letto pochi secondi fa probabilmente gonfierebbero ancora di più. Il tema, lo ricordiamo, è stato al centro ieri della storia di copertina di Casa 24 Plus, che è il settimanale sulla Casa del Sole 24 Ore. Di fronte a queste situazioni ci si chiede prima di tutto come comportarsi, qual è l'iter da seguire per i proprietari, quali possibilità ha un inquilino inadempiente per rimettersi in regola, perché molto spesso chiaramente per queste famiglie quella di non poter pagare l'affitto è un'onta insopportabile e vorrebbero fare tutto quello che è possibile per poter naturalmente pagare e rispettare questo impegno mensile. E poi quali altre risposte possono arrivare in quanto a misure e soluzioni a quello che sembra essere un vero e proprio fenomeno? Agevolazioni dei canoni concordati, sospensioni, fondi sociali per gli affitti, nuovi investimenti nell'edilizia popolare. In tutto questo noi focalizziamo la nostra attenzione sulle famiglie, ma non ci dimentichiamo che questa emergenza sfratti riguarda anche tanti piccoli commercianti che appunto hanno il loro esercizio commerciale, i locali che hanno preso in affitto perché non è detto che siano delle proprietà, e quindi anche questi si trovano oggi in una condizione di emergenza. 800 24 00 24 è il numero verde che vi permette, se volete, di intervenire in diretta, oppure potete scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Se volete siamo anche su Facebook al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24, l'hashtag che ha costruito oggi appunto il nostro Marco Lombardo è naturalmente sfratti. Vi siete trovati o vi trovate nella difficile situazione di uno sfratto dal lato dell'inquilino o da quello del proprietario? Raccontateci appunto le vostre testimonianze e le commenteremo con i nostri ospiti di questa mattina. Fabio Pucci, segretario generale dell'UPI, che è l'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari. Segretario, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche, benvenuta ad Aldo Rossi, segretario nazionale, oltre che responsabile dell'ufficio legislativo del SUNIA, che è il Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari. Rossi, buongiorno e benvenuta anche a lei. Buongiorno a tutti voi. Allora, prima di tutto questo, naturalmente prima soprattutto di raccogliere le vostre testimonianze e i vostri commenti, andiamo a dare un'occhiata all'andamento dei mercati finanziari questa mattina. Il mercato europeo sembra essersi rasserenato da qualche giorno a questa parte, anche Wall Street continua a macinare i suoi record su record. Ieri c'è stato questo dato incredibile: gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti a giugno hanno registrato un aumento del 4,2% in un mese, balzando ai massimi dal 1992. Poi le trimestrali, che più o meno vanno bene, a parte qualche sorpresa, ma in ogni caso il mercato appare da questo punto di vista molto sereno, e a questo punto Wall Street si mette in attesa dell'appuntamento della prossima settimana con la riunione della Banca Centrale Americana e si cercherà di capire quali saranno le indicazioni più precise del numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, sul futuro della politica monetaria così accomodante negli Stati Uniti. Settimana prossima tocca anche alla BCE, alla Banca Centrale Europea. Milano in questo momento sta perdendo lo 0,34%, Parigi è positiva per lo 0,39%, Francoforte è sotto di mezzo punto, Londra meno 0,29%, positiva anche Madrid. I migliori titoli di Piazza Affari: Terna più 1,48%, Telecom più 1,23%, Salvatore Ferragamo più 0,90%, Unicredit più 0,8%, Buzzi Unicem più 0,63%, Finmeccanica perde 2,5 punti. Il mercato non è tanto convinto della smentita che l'azienda ha fatto a proposito del dell'indiscrezione che circolava sul mercato stamattina, un aumento di capitale in vista, titolo è arrivato a perdere quasi 5 punti, poi ha dimezzato, ma è ancora peggiore di Piazza Affari. Mediaset -1,71, Prismian -1,57, Exor -1,53%. Oggi il Tesoro ha collocato 3 miliardi di CTZ a 2 anni, con il tasso in calo sotto il 2% all'1,85 dal 2,4 di giugno, quindi buone notizie per le casse appunto del Ministero dell'Economia. Lunedì si va in asta con BOT per 8,5 miliardi, e peraltro oggi era prevista anche un'asta di titoli indicizzati che il Tesoro ha deciso appunto di cancellare, perché il Ministero dell'Economia ha detto c'è liquidità abbondante, presente in cassa, mancano anche volumi in questo particolare periodo dell'anno, per cui è stata appunto, si è ritenuto di cancellare questa operazione sul mercato. Direi che appunto per il mercato possiamo lasciare qui. Vi segnalo che cosa, di cosa si occupa domani Plus 24 del Sole 24 Ore. La storia principale è concentrata sullo scandalo Fondiaria Sai, di cui ci siamo occupati noi a metà settimana. Plus esamina i casi nei quali gli investitori colpiti da vicende di risparmio tradito hanno coinvolto appunto le autorità di controllo, gli organi di risoluzione alternativa delle controversie o la magistratura. Per cui appunto tutti gli interessati non si perdano questo numero. Andiamo invece al tema di oggi di Salva Danaio. È boom di sfratti in Italia. Gli italiani sono sempre più in crisi, con il 12,7% delle famiglie che rientra nella soglia di povertà relativa. Si inizia a rinunciare al superfluo, a erodere i risparmi, a tagliare spese importanti, e sempre più spesso non si riescono a sostenere neanche quelle essenziali, come il saldo mensile dell'affitto di casa. Nel 2012 sono stati 67.790 gli sfratti in Italia, un dato in crescita del 6,2% rispetto al 2011. E nella stragrande maggioranza dei casi, la causa è proprio la morosità dell'inquilino. I provvedimenti per morosità sono aumentati del 64% dal 2007 al 2011. Tra le cause ci sono anche i prezzi sempre alti, nonostante la congiuntura economica. Se in media infatti il canone scende del 16% sul territorio nazionale, in particolare nelle grandi città il prezzo da pagare per un appartamento continua ad essere molto elevato. Se da un lato ci sono le difficoltà degli inquilini, dall'altro non si possono dimenticare quelle dei locatari. Per tanti, anche e soprattutto in un momento come questo, le entrate derivanti dagli appartamenti in affitto non sono una voce marginale per arrivare alla fine del mese, e i ritardi e irregolarità nei pagamenti sono un fardello pesante sulle spalle dei proprietari, che in molti casi non arrivano a chiedere lo sfratto, senza rientrare quindi in questi numeri già preoccupanti. Non resta che chiedersi quali soluzioni possano rispondere al meglio a questa crisi, come ad esempio le agevolazioni dei canoni concordati, frutto di accordi a livello locale tra associazioni di proprietari e di inquilini, ma anche sospensioni, fondi sociali per gli affitti, nuovi investimenti nell'edilizia popolare. Chiaramente le soluzioni devono essere di lungo periodo, ma più che altro in questo momento si cercano soluzioni per affrontare le emergenze, e sono in enorme crescita, come abbiamo detto. A detenere il record di richieste di esecuzione a Milano, secondo quanto ha rilevato appunto sempre Casa 24 Plus, con quasi 18.000 casi appunto è Milano. Le convalide di sfratto nel 2012 sono state 6.800, quasi 2.000 in più rispetto ai dati ufficiali parziali per stessa missione del Ministero. Il paradosso per il SICET, che è il sindacato degli inquilini milanese, è che nel capoluogo lombardo ci sono 47.000 appartamenti nuovi invenduti e soprattutto 5.713 alloggi ALER, le ex case popolari, sfitte, di cui oltre 3.700 da ristrutturare, su un totale di 62.500 alloggi pubblici disponibili, che chiaramente risolverebbero il problema per le famiglie in difficoltà. Vorrei cominciare subito con un commento di Aldo Rossi, il segretario nazionale del SUNIA, il sindacato nazionale unitario inquilini ed assegnatari, chiedendogli di offrirci lo spaccato dell'organizzazione su questo problema, su questa emergenza. Che richieste arrivano alla vostra associazione, segretario? Appunto, qual è il polso dell'emergenza dal vostro punto di vista? Ma non può che confermare i vostri allarmanti dati, che poi prendono fonti ufficiali, e quindi noi avvertiamo una difficoltà sempre crescente delle famiglie. Di fronte al pagamento dell'affitto, al pagamento degli oneri accessori delle spese condominiali, che sono anche queste in aumento, anche in relazione a recenti riforme che probabilmente comporteranno ulteriori aumenti. Rossi, mi scusi, le chiedo, sta parlando al viva voce cortesemente? Perché non la sentiamo bene. Ah no, va bene, allora magari poi proviamo a ripristinare la telefonata. Comunque ci dica. Quindi avvertiamo questa forte difficoltà. Noi da tempo abbiamo fatto delle proposte di breve periodo e di lungo periodo. La prima, indubbiamente, che salta agli occhi e che è una causa anche della grave difficoltà che ci abbiamo, l'azzeramento completo del fondo sociale per gli affitti. Una misura che invece agevolava il pagamento dell'affitto per le famiglie meno abbienti e che è venuta meno, in qualche modo va messa in correlazione con l'aumento degli sfratti per morosità. Da chi veniva gestito questo fondo, segretario? Veniva fissato ogni anno per legge dalla finanziaria, dalla legge di stabilità. Veniva sostanzialmente distribuito dalle regioni ai vari comuni. Tutto questo oggi si è ridotto a zero praticamente. E non vale neanche dire che c'è una penuria di risorse pubbliche, perché sempre nello stesso campo abitativo abbiamo visto che, per esempio, con la cedolare secca c'è stato un minor introito da parte dell'erario che supera i 600 milioni. Se consideriamo che per il fondo affitti una cifra del genere consentirebbe di portare a record, non ha mai avuto una cifra di questo tipo il fondo affitti, era arrivato ad oltre 100 milioni di euro, ma adesso siamo praticamente a zero e questo appesantimento evidentemente si ripercuote sulla difficoltà a pagare l'affitto, con danno anche per i proprietari. Quindi la seconda questione, certo, che noi abbiamo posto è un meccanismo in qualche modo di ammortizzatore sociale degli sfratti, come c'è in parte sulla difficoltà delle famiglie a pagare le rate di mutuo. In questo caso avevamo pensato a un meccanismo che consentisse ai proprietari di poter rientrare della esposizione del debito dell'inquilino e agli inquilini di poter fare un piano di rientro, e qui abbiamo lanciato anche un appello: riconsideriamo i livelli dei canoni, puntiamo forte sui canoni agevolati, su quelli calmierati, dove da nostri dati l'aspetto della morosità è meno frequente del contratto a canone libero, per evidenti ragioni ovviamente, e quindi diciamo ai proprietari, per stare più tranquilli, vediamo anche dei canoni che siano compatibili con i redditi delle famiglie. Allora andiamo subito a sentire qual è la posizione anche su queste proposte di Fabio Pucci dell'UPI, dell'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari, perché chiaramente a fronte di una famiglia che non riesce a pagare appunto l'affitto, ce n'è anche un'altra dall'altra parte che magari in questo affitto ha una delle entrate appunto per gestire il proprio bilancio familiare, perché Pucci, non è che tutti i proprietari appunto di immobili che li mettono a disposizione di altre persone appunto attraverso l'istituto dell'affitto siano poi tutti questi ricconi, no, che hanno 2000 proprietari. Magari è la seconda casa e per affrontare anche questo momento di crisi, in questo momento la si mette in affitto proprio per avere un'entrata in più, e se per queste condizioni problematiche appunto questa entrata non arriva, anche i proprietari si trovano in difficoltà, giusto? È giustissimo, ma non è solamente poi tra l'altro l'unico problema, perché su questo ne parlava prima Russo pure, ci sono tante famiglie che hanno acquistato con una pendenza di un mutuo, quindi non è solo un fatto di non prendere un affitto che poi magari può servire ai fini familiari ad una maggiore possibilità economica, no, lì c'è proprio tra virgolette un'ulteriore imposta o tassa da pagare, che è la rata di mutuo, quindi voglio dire a maggior ragione. Credo che purtroppo in questo momento la definirei proprio una guerra tra poveri e su questo dovremmo trovare certamente un punto di incontro. L'avevamo già detto, dobbiamo sviluppare, diciamo così, dal punto di vista razionale, usando il buon senso, una convenienza con i contratti concordati, ma qui non è solamente il buon senso da parte dell'inquilino e del proprietario, qui ci deve essere anche lo Stato, il fisco, che ci deve dare una mano, altrimenti non riusciamo in questo momento. Io spero che tra un anno, due anni, tre anni questa bruttissima crisi sia solo un lontano ricordo, ma se così non è ci dobbiamo attrezzare e dobbiamo prepararci, diciamo così, al peggio, l'ha detto e l'ha sottolineato lei. Non credo che sia lo sfratto, no, per morosità la migliore soluzione, né per l'inquilino né per il proprietario. La si fa perché ovviamente ci sono delle situazioni per le quali, tra l'altro, uno tante volte è costretto, perché altrimenti lo Stato neanche giustifica il mancato pagamento se non c'è una procedura di sfratto, mancato pagamento del canone, ovviamente. No, tra l'altro, guardi, adesso tra i primi ascoltatori che si sono messi in lista appunto per intervenire sono praticamente quasi tutti i proprietari, e vorrei proprio subito sentire, così lo commentiamo insieme, il punto di vista di queste persone che si imbattono chiaramente in situazioni concrete e cercano di gestirle come meglio possono. Volevo sentire subito Daniela dalla provincia di Treviso, che possiamo un po' inquadrare in quel gruppo di persone che, come dire, di proprietari che identificavamo all'inizio della nostra trasmissione, cioè coloro che per la verità cercano in ogni modo di venire incontro alle difficoltà dell'inquilino appunto moroso, abbassando il canone, quindi non denunciando formalmente queste situazioni, altrimenti in realtà il bilancio che abbiamo dato all'inizio del numero degli sfratti appunto sarebbe anche più alto di quello ufficiale. Allora sentiamo un po' Daniela come cerca di così attrezzarsi per non sfrattare la sua inquilina. Daniela, buongiorno. Buongiorno e grazie. Allora, il discorso è molto semplice. In questo momento di crisi il mio inquilino non riesce a pagarmi l'affitto e mi porta ogni tanto quello che può. Sinceramente non me la sento di buttarlo fuori perché capisco le sue difficoltà. Solo che io ho registrato il contratto 2 anni fa con l'opzione della cedolare secca. Infatti. E in questo momento non so che cosa fare, cioè lui rimane dentro. Però vorrei fare un contratto dove io le tasse le pago per quello che effettivamente percepisco. È possibile una cosa di questo genere? Se lo potesse rimodulare. Un contratto di affitto e farne un altro? Daniela, sentiamo che cosa ci dicono i nostri esperti. Rossi, lei che cosa dice? Ma guardi, intanto complimenti di fronte a una crisi che qualche volta incattivisce, magari ha ragione, in questo caso la signora dimostra un grande equilibrio e una grandissima sensibilità, e complimenti veramente, sono sentiti. Io ritengo che giuridicamente si può benissimo fare, anzi direi che è l'occasione per poterlo fare, perché tra l'altro, come sappiamo, la signora se percepisce un certo reddito che figurativo, teorico, gli vale poi per l'ISEE, gli vale per qualunque anche provvidenza che lei dovesse dover fronteggiare dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni. Quindi se si è consolidata questa situazione, farebbero bene a rescindere il contratto in corso e a modificarne questo aspetto economico. È una cosa che noi tra l'altro abbiamo proposto, e anche le associazioni della proprietà su questo qualche volta hanno convenuto che c'è un livello non sostenibile. Se le parti sono d'accordo si può arrivare certo ad una nuova locazione. Certo, poi tra l'altro ecco Daniela adesso lo fa per venire incontro alle esigenze di questa persona con la quale ha già stipulato appunto un contratto, ma immaginiamo se ci fosse un'azione di sistema, chiaramente noteremo anche un abbattimento dei canoni notevoli. Ora, o non perché vogliamo questo in assoluto per i proprietari immobiliari, ci sono però evidentemente delle zone d'Italia dove in certi casi sono insostenibili, ecco perché ci sono tante abitazioni anche che poi rimangono sul mercato vuote. Pucci, lei che cosa ne pensa del caso dell'ascoltatrice? Le possiamo suggerire di andare a rimodulare il suo contratto con questo inquilino? Ma questo certamente deve essere rifatto, perché la signora Daniela deve sapere che i canoni non percepiti non possono essere dichiarati solo se il procedimento di convalida si è concluso entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma comunque la rendita catastale va sempre tassata. Se poi si vuole rimodulare perché c'è una convenienza, sa perfettamente la signora Daniela che si parla di un nuovo contratto di locazione. Lo può fare certamente, ma avrà una durata, se lo fanno con un canone libero di 4 anni più 4 anni o altrimenti di quello concordato. Però voglio dire, mi pare che tutto sommato ha usato il buon senso la signora Daniela, su questo gliene dobbiamo dare atto, e come lei vede, no, non c'è una formula, diciamo così, statale, legale, ma è solamente la ragione e il buon senso che inquilino e proprietario stanno usando. Certo, ma esatto, non mi sembra giusto. Esatto, insomma, che è quello che dovrebbe usare anche appunto lo Stato. Daniela chiaramente ha un introito inferiore rispetto alle sue aspettative, quindi è giusto che paghi le tasse su quello che effettivamente percepisce, non sul figurativo, come dicevano i nostri ospiti. Allora, fra poco devo andare in pausa, però ci metterei subito già come spunto, come stimolo, un'altra testimonianza di un altro ascoltatore, ed è Ivan da Brescia, che per la verità è un po' simile al caso precedente, ma non so se ha la stessa disponibilità con i suoi inquilini. Ivan, buongiorno. Buongiorno signora, guardi, quello che ha detto lei è giustissimo, quello che dicono gli esperti sono solo chiacchiere, le spiego subito rapidissimamente perché. Allora mi succede che affitto un capannone, un'azienda, un artigiano, il quale avanza dei soldi tra l'altro dalla regione Abruzzo da anni, va bene, questo qui non riesce a pagarmi l'affitto, va bene, e riesce soltanto a darmi dei piccoli acconti un mese, due mesi, poi mi dà degli assegni che vanno in protesto, ha dei problemi poveretto. Morale della favola, vado dall'avvocato perché questo qui praticamente è 8 mesi che non mi paga. L'avvocato mi dice, Ivan, caro Ivan, devi fare azione di sfratto perché altrimenti non riesci a fare nulla. Nel momento, siccome questa è persona seria, nel momento in cui io mi sto apprestando per fare azione di sfratto, questo mi chiama e dice, Ivan, ascolta, non ce la faccio, chiudo l'azienda, grafo mio, e pianto lì di lavorare, non se ne parla più. Morale della favola. Cioè in sostanza le ha rigettato addosso. Vabbè. Prego. Cioè lui che cosa ha detto? Chiudo l'attività perché tu mi dai lo sfratto? Cioè praticamente le ha dato no, un po'. No, perché la regione Abruzzo non lo paga, per cui non riesce a pagare né fornitori e tantomeno il mio affitto. Allora, in sostanza la cosa si conclude in questa maniera. Io sugli 8 mesi che non ho percepito, va bene, oltre a non aver percepito gli affitti, devo pagare le tasse. Vado all'ufficio delle entrate, va bene, mi presento all'ufficio delle entrate, io spiego e chiedo cortesemente di indicarmi in quale modo io posso evitare di pagare soldi su affitti non percepiti, perché io quegli affitti non li ho percepiti. Addirittura questo signore, questo artigiano, mi rilascia un documento in cui dice, io sottoscritto Pinco Pallino, dichiaro di non aver pagato gli affitti nei mesi di eccetera eccetera per motivi ovvi, e spiegano, porto i reversali delle banche, porto tutti gli accrediti che lui mi ha fatto fino a maggio, certo, mentre invece da maggio dicembre non... insomma gli porto tutte le documentazioni a questo nostro Stato che dovrebbe darci una mano. Quello che mi dice il signor ufficio entrate, persona gentilissima come gli ospiti, sì, che certo, lei, però, certo, esperti, mi dice chiaramente, caro Fantinelli, caro chi Ivan, se ne frega, lei, esatto, lei le tasse le deve comunque pagare, perché come ha detto il suo ospite, finché non viene accettato l'azione di sfratto, cioè in sostanza io mi sono sostituito allo Stato che non pagava, cioè questo, se lei avesse attivato la procedura di esecuzione magari 4 mesi fa, per 4 mesi avrebbe pagato le tasse su 4 mesi di affitto teoricamente percepito e 4 no, cioè se si fosse attivato prima il fisco le avrebbe creduto? E certo, il fisco crede soltanto nel momento in cui l'esecuzione di sfratto diventa esecutiva. Cioè se uno cerca di dare una mano a un artigiano, io ho sempre fatto l'imprenditore fino a 2 anni fa, adesso questo capannone l'ho affittato a dei poveri artigiani, i quali stanno navigando in mezzo a un sacco di guai, lo Stato che non li paga, le banche che non col credit crunch non gli danno la lira. Se lei fa l'errore di dare una mano a questi qua, nel senso di dire, vabbè dai, certo, te ne pagherei qua anche te, tu ci va di mezzo lei. Questa è la risposta che abbiamo da questo Stato. Paese. Ivan, grazie per la sua accorata testimonianza. Io la ringrazio perché la sua trasmissione è molto seguita. Io vorrei che quei signori lì, invece di dare soltanto le buone parole, entrassero nel vivo dei problemi. No, vabbè, ma cosa c'entrano le persone che sono con noi questa mattina? Entrambi qua siamo a livelli molto più alti, Ivan, e speriamo che questi livelli più alti ci ascoltino oggi. Abbiamo fatto tantissime battaglie da tante trasmissioni, appunto da Radio 24, in certe circostanze appunto ci hanno anche ascoltato, più che darvi voce appunto con le vostre testimonianze così sentite, così forti, così dirompenti, emozionanti anche, non possiamo fare. Però grazie ancora, Ivan, e magari le rispondiamo, devo andare in pausa, sono in ritardissima. Poco. Eccoci ritrovati in diretta a Salva Danaio. Oggi siamo partiti da un dato che è stato diffuso ieri da Casa 24 Plus, il settimanale della Casa del Sole 24 Ore, che ha appunto monitorato il fenomeno degli sfratti in Italia, registrando un clamoroso aumento nel 2012. E peraltro, ecco, il monitoraggio si riferisce all'anno scorso rispetto al 2011. Chissà cosa non sarà successo in questi primi 6 mesi, appunto, del 2013, in cui la crisi è tutt'altro che rientrata e anzi morde sempre di più. Allora, stiamo commentando questo andamento, soprattutto stiamo cercando di capire le ragioni di tutti, degli inquilini che non possono permettersi ovviamente una casa da acquistare, quindi devono necessariamente andare in affitto, ma quando va in tilt il bilancio familiare perché magari salta un posto di lavoro e qua chiaramente non si riesce a far fronte neanche a questo. Poi parliamo delle famiglie, ma parliamo anche degli artigiani, delle partite IVA, dei commercianti appunto che affittano molto spesso, non è detto che abbiano le proprietà dei locali dove lavorano. E come avete sentito anche nella toccante testimonianza di Ivan da Brescia, qua siamo anche in condizioni in cui magari il proprietario fa di tutto per poter aiutare la persona a cui ha dato la casa, ma qualche volta appunto proprio la situazione non si riesce a sistemare e ci va di mezzo anche il proprietario, perché poi lui su quello che teoricamente percepisce ci deve pagare le tasse. Allora, con noi stamattina Fabio Pucci, segretario generale dell'UPI, l'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari, e Aldo Rossi, segretario nazionale del SUNIA, il Sindacato Nazionale Unitario degli Inquilini. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Tornerei subito a Pucci per fargli commentare il caso di Ivan da Brescia, che non ha potuto far nulla appunto anche di fronte al fisco, che è sempre sordo di fronte alle esigenze di chi è in una condizione di necessità, e lui comunque appunto, pur avendo potuto dimostrare in ogni modo che non percepiva appunto concretamente l'affitto, l'Agenzia delle Entrate è stata irremovibile. Ma infatti era quello proprio che dicevo, adesso non so perché Ivan se l'è tanta presa con noi. No, perché qualche volta così un po' esprimono il loro disappunto, immaginando che tutte le figure ragione, se la prendono anche con noi tante volte. Hanno perfettamente ragione, però voglio dire, era quello che tutto sommato dalla signora Daniela emergeva, cioè vale a dire che purtroppo questo Stato che non aiuta nessuno, tantomeno la piccola proprietà immobiliare, nel momento in cui c'è questa situazione così lapalissiana, così chiara, no, uno è obbligato a fare un percorso legale, che è lo sfratto per morosità, per dimostrare di non aver percepito il canone di locazione. E questo, voglio dire, non è una fiducia nei confronti dei cittadini, perché sarebbe invece sufficiente una dichiarazione fatta, come diceva prima Ivan, dal suo conduttore per giustificare una mancata entrata. Cioè, lo Stato non si fida nemmeno dei propri cittadini. Questo, cioè, per quale motivo uno deve ad un certo punto fare un percorso legale con le spese per dimostrare che quello non ha pagato? Certo. Guardi, in tutta quella storia di Ivan, secondo me invece la cosa più scandalosa di tutte è che la Regione Abruzzo non pagava questo artigiano che occupava quel capannone, situazione per la quale questa persona non ha potuto, per cui siamo sempre la solita storia, questo Stato che gli impegni con chi lavora per lui non li rispetta, e qua finché non veniamo fuori da questa situazione continueremo a fare trasmissioni su questo argomento, non lo so, per altri 50 anni. Andiamo a sentire qualche altro ascoltatore. Simone da Prato, buongiorno. Simone, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, anche agli ospiti. Ora, la mia storia è un po' singolare. Praticamente il tempo è questo, si parla di giugno ora. Io ho un'inquilina dove ha perso il lavoro e è sorto i problemi, diciamo, di pagamento dell'affitto. Per forza. Allora, avevamo trovato l'accordo, nel senso, io avrei abbonato i canoni mensili che non aveva pagato, gli avrei restituito la caparra che mi aveva versato e lei mi doveva lasciare l'appartamento il primo di giugno e mi aveva firmato il regolare di sdetta. Quando poi siamo arrivati al primo di giugno, il locale non è stato lasciato, insomma siamo entrati in conflitto, a quel punto io sono andato all'avvocato e gli ho mandato la fine locazione con disdetta. A questo punto, veramente, lei è andata all'ufficio delle entrate, ha fatto una dichiarazione falsa, che io percepivo un affitto superiore a quello dichiarato, cosa non reale, dove c'è tutte le regolari ricevute, dove c'è tutto quello che c'è. L'ufficio delle entrate, in automatico, senza interpellare me in nessun modo, ha annullato il contratto precedente, ne ha fatto uno nuovo, con un canone di locazione pari a un terzo del valore catastale dell'immobile. No, guardi, Simone, posso dire, però a me questa sembra una situazione surreale. Com'è possibile che si sia potuto scrivere materialmente un contratto senza la sua presenza? Ho mandato anche un avvocato a questo ufficio delle entrate. Ora, io è una cosa, diciamo, fresca e sto cercando. L'avvocato mi ha detto che l'unica soluzione è quella di fare una denuncia per diffamazione, quindi andare per vie, diciamo, penali, dove poi si dovrà accertare quindi che lei ha dichiarato il falso e poi di conseguenza, ma un iter immenso. Ma mai un incubo, Simone, perché qua oltre che io devo capire anche che io sto pagando le tasse per oltretutto. Sto pagando le tasse per ora per l'affitto che io ho sottoscritto nel primo contratto, quindi vorrei anche capire le tasse che io, perché al momento il contratto precedente è stato annullato di conto all'ufficio delle entrate e ne ha fatto uno nuovo per un canone inferiore che è stato stabilito non so che regole, comunque inferiore a quello che percepisco. Ora vorrei capire anche se io devo continuare a pagare le tasse per il guardi primo. Tanto così per infierire sulla sua situazione, Simone, temo proprio di sì. Ma a me quello che Fabio, Aldo Rossi, vorrei tornare con lei, perché qua chiaramente noi ce la prendiamo molto spesso con i proprietari che hanno tante case, non le mettono appunto a disposizione della collettività, non le affittano eccetera, ma certo che quando uno si trova in una situazione del genere, una volta che il nostro Simone si sarà liberato di questa inquilina, prima che vada a riaffittarla di nuovo, la casa ci ripenserà 5 milioni di volte, no? Ma com'è possibile intanto che, secondo lei, adesso lei non c'era, chiaramente non mi può dare una risposta precisa, come può essersi verificata una situazione così paradossale? Ma guardi, Rossi, dove è finito? Vabbè, qua io non la sento, ma com'è possibile che un fisso si senta così male stamattina sta telefonata? Vorrei fare lo sentiamo, Rossi? No, stiamo riprovando Pucci, allora faccio commentare lei questo caso. Dunque, ho capito perfettamente qual è la situazione in cui si è trovato il nostro radioascoltatore. A parte, vabbè, la soluzione poi ognuno la vede nel migliore dei modi, però io dico, questa soluzione qui molto probabilmente vedrà tra una decina d'anni probabilmente questo contratto, che ancora sarà sottoposto a un regime di carattere legale. Il problema è che molto probabilmente giustamente il nostro radioascoltatore ha prospettato questa situazione, cioè questa nasce sicuramente da una mancanza di un contratto di locazione scritta, dove l'inquilino, prendendo spunto dalla legge 431 del 98 e naturalmente dall'ultima, quella relativa alla cedolare secca, è andato all'Agenzia delle Entrate deducendo che non c'era nessun tipo di contratto di locazione scritto o che comunque avrebbe avuto un cambio di locazione maggiore rispetto al precedente. Lì si è applicata subito la normativa, e questa normativa prevede appunto tutto quel percorso che lui ci ha detto. Ed è una situazione veramente complicata e veramente difficile. Perché? Perché viene creduto in questo momento l'inquilino, il quale dice non c'era un contratto, se c'era un contratto era un contratto simulato, e a questo punto io chiedo l'applicazione della legge. Su questo noi ci siamo battuti moltissimo, perché effettivamente in questo contesto la proprietà immobiliare, la piccola proprietà immobiliare, è in grandissima difficoltà. Infatti lo immagino. Figuriamoci, vi trovate in difficoltà pur stipulando dei contratti a norma di legge nei dettagli più minuti, e figuriamoci appunto se un contratto viene stipulato in termini un tantino superficiali, come è capitato appunto probabilmente a Simone da Prato. Allora, 800 24 00 24, e qua devo dire che le persone che in numero maggiore appunto ci stanno scrivendo anche al 349-238-6666 sono molto molti proprietari che poi, alla luce anche di quello che stiamo raccontando, sono molto scoraggiati dal mettere sul mercato le proprie abitazioni. Tina per esempio ci scrive: io vorrei cambiare casa affittando quella in cui vivo attualmente, ma ho il terrore di non poter più rientrare in possesso in caso di necessità, visto che ad essere tutelati sono esclusivamente gli affittuari, e questa è la percezione appunto che passa tra i nostri ascoltatori. Rossi, tra poco torno da lei, ma adesso dobbiamo sentire i suggerimenti per chi è in viaggio. Poi ci aveva anche fatto un blitz telefonico un nostro esperto di questioni tributarie, per la verità, che è il nostro Nicola Forte, che salutiamo, perché sostiene che abbiamo forse detto un'imprecisione relativamente alle procedure esecutive per in questo caso strutture non abitative, ecco, in questo caso forse si riferiva alla situazione che abbiamo sentito prima di Ivan, che ha affittato appunto un capannone. Comunque la questione secondo me non cambia tanto, Nicola, perché il tema è che questa persona non poteva pagare e il proprietario voleva rientrare appunto in possesso giustamente del suo capannone. Aldo Rossi, Sunia, l'abbiamo ripescata, mi faccia un po' sentire se si sente bene stamattina questo telefono. Io mi sento perfettamente. Molto bene, grazie. Allora, vuole commentare il caso di Simone? Perché giustamente è stato definito paradossale, però come ci suggeriscono spesso di non fare i processi penali in diretta o televisivo o radio, così direi sui civili, perché quella procedura lì è stata prevista dal legislatore, dico anche a Pucci, per chi stipula contratti che non registra o contratti simulati, cioè in cui scrivo che mi dai 300 invece me ne dai 1000, cioè quindi due casi palesi di evasione fiscale. Lui dice che non era assolutamente vero. Allora, infatti, non a caso, ma io credo alla bontà di quello che lo scrittore ci diceva, perché se il suo avvocato gli ha consigliato un'azione penale, evidentemente qui c'è stata qualche dichiarazione o qualche documento falso, però siamo in un caso limite. In realtà la procedura è prevista, ripeto, per i contratti completamente in nero, come si dice con un termine giornalistico, cioè contratti non registrati, non scritti, che spesso alcuni proprietari, che non sono quelli onesti che tutela Pucci, ma ce ne sono che per esempio affittano destra comunitari in due stanze 10 persone, cioè abbiamo un variegato. Per quello che riguardava Ivan invece, voglio dire, lì abbiamo anche lì un problema di ricontrattazione delle locazioni, anche delle modalità e delle durate, dei termini di disdetta, perché la crisi sta mordendo in quel settore là. Basta girare in qualunque quartiere di Roma o Milano e basta passare un mese o due mesi in una strada e vediamo decine di affittasi con verrande chiuse. Quindi insomma non è vero che non ci sono le case da affittare. Il problema è che i prezzi ci stanno, perché anch'io a Milano ne vedo tanti di annunci, ma che prezzi ci sono? Autostrada, perché il commerciante non è che abita là dentro, per cui chiude la serranda e se ne va. Io capisco che questa è una difficoltà estrema, per cui per esempio anche il ruolo delle associazioni è importante, perché dobbiamo cominciare a modulare delle possibilità di rientrare nel mercato di immobili che adesso per rigidità non entrano nel mercato. Dobbiamo considerare anche questo. Allora, il fisco, concludo su questo, il fisco viene usato malissimo su queste cose qua, perché se per esempio la cedolare secca si fosse indirizzata prevalentemente sui canoni concordati, allora io Stato ci metto del mio, ma voi cercate di calmierare un po' i canoni. Perché io vi aiuto fiscalmente, poteva essere un'occasione che è andata persa. Esatto, come tante altre, come sempre Rossi, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, intanto noi abbiamo queste situazioni appunto da affrontare. Ancora tanta testimonianza degli ascoltatori, sentiamo un po' Marino da Milano che è in attesa da un po'. Marino, buongiorno, benvenuto, rapido così le metto insieme anche altri suoi colleghi. Ci dica. Sì, certo. Buongiorno a lei, volevo portare la mia testimonianza in merito a questa situazione economica, soprattutto che aleggia nel nostro paese. Io ho un immobile che mi è stato donato dai miei genitori, quindi questo immobile qui è stato sfitto per 7 anni. Poi nel 2011 ho deciso di affittarlo con un normale contratto di locazione, con depositato all'Agenzia delle Entrate di Milano. Certo. E cosa succede? Succede che questa famiglia in un tempo molto breve diventa insolvente. Insomma, la prima cosa, Marino, lei ha detto, ma chi me l'ha fatto fare? Era stato tanto tranquilla chiusa per 7 anni, insomma, perché non ho continuato? Una cosa, io ho cercato di dare una mano a questa famiglia, dandogli un tetto, ecco, quindi la famiglia sapeva già che era in condizioni di difficoltà. No, assolutamente, perché se solamente avessi avuto solamente la pallida idea, sicuramente non avrei fatto un'azione di questo genere. Quindi com'è finita la situazione? Beh, è finita che sono dovuto fare un percorso legale per poter ritornare in possesso dell'immobile, quindi con costi aggiuntivi oltre al mancato pagamento delle quote di mia competenza, ma la cosa incredibile è che questa famiglia qui ha lasciato l'appartamento derubandomi poi di tutto quello che avevo in casa, perché la casa era completamente affittata, quindi degli elettrodomestici, del frigorifero. Certo, Marino, allora voglio sperare certo che sia ovviamente, e lo è senz'altro, una situazione molto estrema. Le famiglie che occupano le case, che affittano le case regolarmente, ce ne sono tante in difficoltà che non possono pagare perché sono in condizioni di difficoltà oggettiva e non ci sono tutti i furbi in circolazione. Sentirei Cesare da Roma che ci chiede invece un suggerimento pratico appunto per stipulare un contratto con regolarità. Cesare, buongiorno. Buongiorno, io ho ascoltato la vostra trasmissione e credo che siano emerse due, non direi errori, cioè inesattezze. Inesattezze. Perfetto, cioè, ci dica. Primo, quando un conduttore è in difficoltà, qui almeno l'Agenzia delle Entrate di Roma accetta un contrattino tra le parti, una cosa scrittura privata con cui si riduce il canone di affitto da X lire a Y lire e lo accetta, si registra e quindi uno almeno per il prossimo periodo pagherà un IRPEF che è commisurata al nuovo canone. Ecco. Rapido, Cesare, perché stiamo chiudendo. La seconda cosa è che non è stato detto che non è possibile dedurre dal reddito i canoni di affitto di locazioni commerciali non percepiti, ancorché in presenza di atto di convalida di sfratto. Questo perché sono canoni commerciali, anche se questo contrasta con l'articolo 53 della Costituzione italiana. Vabbè, Cesare, sa quante brutte abitudini appunto nel nostro paese vediamo che contrastano appunto con la Costituzione. Qua andiamo avanti tutti con grande tranquillità. Pucci voleva commentare i suggerimenti che ci ha dato Cesare. No. Allora, quello che sta dicendo l'ultimo ascoltatore lo abbiamo già detto. Esatto, cioè, nel momento in cui uno va e sottoscrive è un conto. Non so che l'esperto che è intervenuto che cosa ha sottolineato, io dico solamente che c'è tanta confusione in questa vicenda, però se qualcuno andasse a leggere la recentissima sentenza, diciamo la recentissima sentenza del 10 maggio del 2013 della Corte di Cassazione, vedrà che quello che noi abbiamo detto e che stavamo dicendo con il collega Rossi è quello che la sentenza dice, cioè vale a dire c'è tanta confusione, ma se uno non paga, sia che si tratta di un uso abitativo, sia che si tratta di un uso diverso dall'abitazione, quelle sono le situazioni in cui uno si viene a trovare, cioè deve dimostrarlo con un procedimento di sfratto, punto. Tutto il resto è immaginazione. Infatti, benissimo. Allora richiamiamo appunto anche magari, vediamo se riusciamo a farlo entro la fine della trasmissione, i termini di questa sentenza della Corte di Cassazione, così la mettiamo anche a disposizione dei nostri ascoltatori che potranno tranquillizzarsi, speriamo, sull'argomento. Sentiamo Fabio da Lodi. Fabio, veloce, grazie. Sì, senta, volevo, a parte ho sentito tutte le vostre attuali situazioni che hanno raccontato un po' tutti, volevo solamente dire ad esempio che abbiamo dei problemi grossi anche quando ad esempio si affittano persone che poi scompaiono, quindi scompaiono nel senso che lasciano l'immobile senza mai, senza ridare le chiavi e quindi senza sapere dove sono finite. Questo succede non solo con i cittadini stranieri che tornano al loro paese, ma anche con cittadini italiani. Qui il paradosso è che bisogna comunque intentare un'azione di sfratto, quindi il proprietario viene di fatto, passatemi il termine, gabbato due volte, perché non solo inizierà a non prendere più l'affitto, ma dovrà anche spendere dei soldi per fare un'azione di sfratto per poter rientrare in possesso di un immobile che di fatto non è più occupato da nessuno. Certo, allora grazie purtroppo, Fabio. Purtroppo le situazioni sono queste. Peraltro mi dispiace che stamattina veramente, ma è totalmente un caso, le telefonate che abbiamo ricevuto sono solamente, quasi esclusivamente quelle di proprietari che appunto devono gestire queste situazioni, persone appunto che invece sono in affitto che ci raccontassero la loro condizione di difficoltà e le motivazioni per cui invece l'affitto appunto non riescono a pagarlo, ce ne sono state poche. È chiaro che è una situazione che non si racconta volentieri, ma magari appunto insieme potevamo trovare anche delle soluzioni, così confortarvi un po' per quello che si può fare tramite una radio. Ce la faccio a sentire Elena da Roma in 20 secondi. Elena, grazie, rapidissima, buongiorno. Rapidissima, buongiorno, non vedevo l'ora di parlare di questo argomento con voi perché ho avuto un inquilino con il quale tra l'altro ho fatto un contratto 3+2 concordato, quindi a un prezzo molto basso per una casa ai Parioli a Roma che sul mercato sarebbe valsa molto di più. Ho impiegato 9 mesi a sfrattarlo perché era moroso e mi hanno detto che sono stata fortunata, più mi ha lasciato un anno di condominio e di riscaldamento ordinario da pagare. Il problema è che la prassi, cioè l'ufficiale giudiziario che viene 3-4 volte a distanza di 2-3 mesi e via dicendo, non è la legge. La legge in teoria ti consente di sfrattarlo dopo un mese di morosità. La burocrazia, gli ufficiali giudiziari, la polizia, perché si dice che si abbia bisogno della polizia, non te lo permetto. Elena, io purtroppo devo chiudere perché sto chiudendo la trasmissione, sono già in ritardo. Guardate, visto che vi è appassionato così tanto, ci torneremo presto su questo tema. Grazie a Fabio Pucci, Aldo Rossi per essere stati con noi. A domani.